Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Siete stati contagiati anche voi dalla mania dell'usato? Tra poco scopriremo insieme perché. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Oggi parliamo di vintage, di modernariato, di riuso, di swap party, tutte tendenze alla base del boom del second hand, degli oggetti di seconda mano. Parliamo poi di una nuova strategia anticrisi che si rifà al rinascimento e per il focus sui trend di web style, quando la rete fa tendenza. Per iniziare, come sempre, le notizie e curiosità della settimana. Anche i vini francesi, i grandi cru, sono vittime della crisi economica e il mercato crolla. È successo all'annata più prestigiosa degli ultimi tempi, quella del 2005. Un premier cru di Bordeaux, che si vendeva a più di 1000 euro la bottiglia fino allo scorso luglio, sul mercato londinese oggi non costa più di 500 euro. Il gioco di società diventa community online. Risiko e Trivial Pursuit traslocano sul web e si preparano a una versione per l'iPhone. Coop e Telecom insieme per agevolare il pagamento delle bollette. D'ora in avanti potranno essere pagate alla cassa del supermercato insieme ai prodotti acquistati per la spesa. Il servizio, attivo in 64 punti vendita Coop del centro Italia, sarà gradualmente esteso a tutta la rete. Harry Potter, che nostalgia! Calano le vendite nell'editoria per i ragazzi, meno 14%, anche se aumentano le case editrici di settore, più 17%. Cambio di look per Liberty, lo storico department store di Londra. Il primo piano dell'edificio di Regent Street, inaugurato 150 anni fa, è stato ripensato come un vecchio bazar, con espositori in legno e vetro. Arriva la Polaroid digitale, versione aggiornata della storica fotocamera lanciata nel 48 e ritirata dal mercato qualche anno fa perché superata. La Pogo contiene una mini stampante a tecnologia zero ink, quindi senza cartuccia. Per stampare una foto ci vogliono 40 secondi. Ferrino, storico brand dell'attrezzatura da campeggio, lancia lo zaino armadio. L'interno ricorda quello di uno spogliatoio in miniatura. Cassetti, ripiani, una barra per le grucce e una mini libreria. La borsa della spesa. Oggi nella nostra shopping bag ci sono abiti, accessori, libri, mobili, tutto di seconda mano. Complici la crisi, la moda vintage, il collezionismo, il consumo critico e le nuove leggi a tutela del settore, gli italiani hanno riscoperto il fascino dell'usato. È boom per la compravendita di oggetti di seconda mano. Secondo i dati della Camera di Commercio di Milano pubblicati dal Sole 24 Ore, negli ultimi 4 anni i punti vendita dell'usato sono aumentati del 35% e hanno registrato 900 nuove aperture su 3.500 negozi totali. A questi vanno aggiunti i circa 2.000 tra mercatini periodici e fiere specializzate. A trainare la tendenza, la Lombardia, con oltre 450 imprese attive nel settore, seguita da Toscana e Lazio, mentre tra le città primeggia Roma, davanti a Milano e Napoli. Dall'abbigliamento per bambini a quello sportivo, dagli abiti vintage per le fashion victims al riutilizzo di materiali di scarto per creazioni artistiche, fino ai veri e propri mercatini dell'usato, dove si trova abbigliamento, accessori, libri, mobili, elettrodomestici e altro ancora. I vantaggi sono evidenti: guadagno per chi vende, diviso tra fornitore e negoziante, risparmio per chi acquista, recupero di spazio per case e cantine, riuso e riciclo per l'ambiente. Un ciclo virtuoso. Lo abbiamo capito, non si tratta più dei vecchi mercatini delle pulci o delle botteghe dei rigattieri. L'offerta è molto ampia. Ormai è un vero e proprio business, tanto che ci sono anche catene di franchising come Mercatino, una delle più grandi, con 170 punti vendita, una crescita del 12% negli ultimi 6 mesi. Le fasce di clienti si stanno allargando di anno in anno, ci conferma il presidente Gianni Perbellini. La gente che si affida a noi è sempre di più, sia per vendere le proprie cose e sia per acquistare delle cose ancora utili, ancora funzionali. Finalmente dismettiamo l'usa e getta e invece ci orientiamo di più a valorizzare le risorse. C'è una maggiore consapevolezza. Io sono solito dire che molto spesso la gente si guarda all'inizio con un'aria un po' blasé perché ci crede, come dire, dei vecchi rigattieri, ma poi alla fine, quando spiego che anche nelle grandi catene d'alberghi si mangia con posate, con piatti usati, si dorme su lenzuola usate, ci si asciuga con degli accappatoi usati, la questione diventa più facilmente percepibile anche ai più scettici. Il nostro target di riferimento tende ad adeguarsi alle situazioni economiche e alla congiuntura economica del momento. In questo momento sicuramente il nostro target si è più orientato a una fascia medio-medio alta piuttosto che a una fascia media, che era quella che invece qualche anno fa ci contraddistingueva. Si è alzato anche il livello di ciò che ci viene consegnato in conto vendita. La semplificazione delle norme che regolano il settore risale al 2001 ed è una delle ragioni alla base del boom. Ora è arrivata anche una nuova legge, datata 28 febbraio, che prevede la valorizzazione in chiave ecologica dei mercati dell'usato. Gli enti locali dovranno individuare spazi pubblici per lo svolgimento periodico di queste manifestazioni. Ma c'è anche un modo che ha a che fare con l'usato per comprare senza spendere. Risale ai primordi del commercio è il baratto. Aiutato dal web e dalle community è tornato prepotentemente di moda ed è diventato anche un fenomeno di costume con gli swap party, letteralmente festa del baratto. Appuntamenti tra amici in casa o in un locale per scambiarsi oggetti e anche servizi. A Mestre c'è un bar, si chiama Bar At, dove ci si scambia di tutto e si può pagare un cappuccino, per esempio, con un libro, una sedia o un giocattolo. Riciclare e scambiare sono diventate esigenze esistenziali, ci dice il proprietario Stefano Pesce. Questo spazio è assolutamente libero, cioè non c'era niente, un semplice bar di un parco, e l'abbiamo proprio costruito all'interno, cioè arredato, attraverso le donazioni, gli scambi di tutta la clientela e la gente che è venuta nel primo mese di apertura, per cui siamo riusciti appunto attraverso lo scambio con consumazioni ad avere tavoli, sedie e soprattutto tantissimi libri e giocattoli, per cui arredare totalmente un bar attraverso lo scambio e il baratto di cose. Ci siamo trovati anche impreparati, in quanto veramente la gente ha risposto con entusiasmo e ci portava veramente un sacco di cose, probabilmente davvero le soffitte sono piene di cose inutili. Per cui dopo qualche mese abbiamo dovuto dare un po' lo stop a questo sovraccarico di cose, ma ancora oggi continuiamo sì a farlo, magari in modo un po' più oculato, cioè il libro che ci serve o il cambio del mobile perché si rompe, ovviamente essendo cose usate sono soggette anche ad un'usura. Continuiamo a farlo e con piacere soprattutto. Cambiamo argomento con il direttore di Markup, Luigi Rubinelli. Parliamo di strategie anticrisi. La storia insegna, bisogna tornare al Rinascimento. Mentre nel largo consumo la bagarre sul prezzo si fa ogni giorno sempre più accesa, finalmente un gruppo di aziende ha capito che bisogna puntare ad altri valori per uscire da una crisi che ha esiti incerti. È il caso di Renaissance Link, un manifesto culturale e fattivo coordinato dal sociologo dei consumi Francesco Morace. Ecco i punti di partenza del manifesto, che vuole sensibilizzare la business community, i politici, i media, gli opinion leader su una diversa visione del mercato e della società. Bisogna, sottolinea Morace, rimettere al centro la cultura del fare, l'esperienza delle arti e dei mestieri con la A e con la M maiuscola, l'apprendistato della bottega rinascimentale. Il modello del Rinascimento, infatti, mette al centro la sua capacità di integrazione dei saperi puntando sull'alleanza tra progetto imprenditoriale, qualità territoriale e talento artistico. Bisogna considerare, dice ancora il manifesto, la città come un laboratorio aperto di incontri e esperienze culturali in cui le imprese illuminate tornino a giocare un ruolo decisivo nell'organizzazione sociale e nell'espressione del talento. Per arrivare a ciò bisogna definire una convergenza fra le nuove frontiere del web, capitalismo responsabile e visione rinascimentale, incoraggiando il riconoscimento del valore più che il profitto, la co-creazione più che la gerarchia, la sfida più che la stabilità. Renaissance Link deve agire da grande collettore e catalizzatore di proposte, progetti e persone per dare all'Italia una nuova prospettiva di sviluppo. Speriamo bene. Essere e avere. quando la rete fa tendenza. Bentornati in studio con Essere e Avere, questo è il tema del focus sui trend della settimana, in compagnia come sempre di Patrizia Martello, direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF, docente di sociologia dei consumi e della moda all'Università di Bologna. Bentornata Patrizia. Grazie, bentrovati. Web style dunque, un'espressione con cui vogliamo indicare tutti quei prodotti che si ispirano all'estetica e al mondo web. Dai gadgets ai gioielli, dai mobili ai complementi per la casa, gli esempi sono moltissimi e non si parla solo di prodotti, ma anche di modelli di business, di linguaggi espressivi, di arte e di comunicazione. La rete ormai ha invaso ogni aspetto della nostra vita, della nostra quotidianità e gli indizi sono praticamente dappertutto. Patrizia. Sempre più il mondo offline, quello cosiddetto reale, la first life, si intreccia con la vita e le attività online, tanto che sempre più prodotti, servizi ma anche esperienze ne rispecchiano la tonalità espressiva e questo nostro primo mondo si ispira proprio al web. C'è in atto una vera e propria imitazione di ciò che di meglio c'è online, dai supermercati e grande distribuzione che usano layouts che rimandano a quelli più intuitivi delle home page dei siti web, alle campagne di comunicazione. Un esempio, la campagna di lancio delle macchine digitali Leica Delux 3 è stata fatta con dei pixel dog, cioè dei cani costruiti con pixel di Lego che sono stati disseminati nei parchi di molte città. Sono moltissimi gli accessori e gadget ispirati alla tastiera dei computer, che è un po' il simbolo del punto di accesso, di passaggio tra i due mondi. Quindi abbiamo anelli come Keyboard 8 in argento, che è un anello con incastonato il tasto numero 8 della tastiera, ma anche delle tazze tronco piramidali in porcellana che messe sotto sopra riproducono i tasti Ctrl, Alt, Delete, eccetera. E anche campanelli di casa fatti a L come il tasto Enter con la freccia che dà appunto l'ok per gli accessi, ma poi anche delle borse fatte con i tasti delle tastiere, eccetera. Poi abbiamo orecchini a forma di console come la Nintendo DS e via dicendo. Ci sono delle interessanti forme di cosplay in questi travestimenti che in genere si fanno con i costumi dei personaggi preferiti e in questo caso abbiamo iPod, schermate di siti, cellulari, eccetera. Il fenomeno della customizzazione è molto interessante perché riguardava soprattutto prodotti offline che venivano personalizzati appunto grazie al web e adesso comincia a riguardare anche prodotti esclusivamente online. Un esempio per tutti è il mercato della moda per avatar. FabJectory per esempio è una società che trasforma gli avatar o i character in vere figures, cioè delle statuette che riproducono nel dettaglio la versione digitale, o ancora la neozelandese Ponoco che trasforma qualsiasi disegno bidimensionale digitale in un oggetto 3D, confermando che non solo offline imita l'online, ma che vale anche il contrario, cioè i brand nati sul web vogliono essere parte anche di quest'altro mondo. Un esempio è il merchandising firmato Google, ma anche il primo volume di Wikipedia stampato in tedesco con 50.000 voci, o il servizio di Social Flowers per mandare fiori veri agli amici su Facebook. Il mondo digitale contagia anche l'arte, nella scheda parliamo di web art. Pixel, videoproiezioni, multimedialità, interattività, creazione open source, tridimensionalità virtuale. Sono questi gli ingredienti della web art che, a seconda delle inclinazioni, diventa net art, hack art, video art, software art. In pratica, tutte le forme d'arte elaborate in forma digitale, dai primi esperimenti di computer grafica e pixel art fino ai progetti multimediali e interattivi più innovativi. Le classificazioni sfuggono agli stessi esperti. Le nuove forme d'arte consentite dalle tecnologie e dalla rete sono moltissime, in continuo divenire come i mezzi che utilizzano. Ultima corrente di punta, la global art. Tecnologie internet più immagini satellitari e video. Come il globo sgonfiato del francese Maurice Benayoun, su cui in tempo reale vengono proiettate da 3200 città le immagini selezionate da Google Trends, il servizio che indica le parole più cercate in rete e dove. Per l'artista, la rappresentazione in presa diretta delle emozioni della Terra. Patrizia, tutto molto affascinante, le applicazioni, le contaminazioni sono veramente moltissime. Sì, abbiamo sentito nominare il Pixel, che è un po' un'icona di questa tendenza di cui parliamo oggi. Ci giocano molto l'arte e il design. Pensiamo all'ultima performance dell'artista Helmut Schmidt, che ha bruciato un riquadro di 82 cm per 82, cioè l'esatta dimensione di un pixel visto da un'altitudine di un chilometro. Quindi con Google Earth si può visualizzare la proiezione di questa porzione di terra che lui ha bruciato, che appare come un pixel morto all'interno del paesaggio che si vede. Ma ancora, Pixel Couch è un divano distribuito da Amoroso che ha tutta una texture pixelata. Ma poi abbiamo gioielli ciondoli con delle pietre che giustapposte sono una sorta di pixel uno vicino all'altro. Oppure ancora Onion, questo supporto da parete portafrutta che ha una struttura, diciamo, alveolare, espandibile all'infinito, e trasforma le pareti di casa in schermi che cambiano, si posiziona la frutta nel riquadro e si crea un gioco di pixel vista da lontano. Ancora, il designer Ignacio Pilotto ha creato degli adesivi con il logo YouTube da applicare allo schermo televisivo, quindi parlando di digital style, in questo modo si attiva una trasformazione paradossale di contenuti e anche formale, no? Lo schermo della televisione che però rappresenta il grande archivio visivo YouTube. Infine, un caso letterale molto interessante di digital style è Code Monkeys, questa sitcom americana animata, un cartone animato in purissimo stile Atari, quindi con la grafica 8-bit anni 80, l'audio, la musichetta appunto che riprendono questo videogame, con i nomi e riferimenti agli episodi del mondo dei game di quegli anni e le diciture come per esempio Game Over alla fine di ogni episodio. La rete, lo abbiamo detto, contagia anche la moda, ma non solo nella riproduzione di simboli e segni grafici del web, anche nei linguaggi, nelle potenzialità espressive del mezzo. Casa Sweet Tears è il primo reality web di un marchio di moda, un progetto che mette insieme moda, web, TV e social network. Per saperne di più abbiamo in collegamento Cristina Cotterchio, responsabile progetti speciali per il marchio Sweet Tears. Buongiorno, benvenuta. Grazie e buongiorno a tutti. Ci racconta Casa Sweet Tears come nasce, come funziona? Casa Sweet Tears, come ha già accennato lei prima, è il primo reality sul web che una brand di moda realizza. È un progetto però che vuole andare un po' in controtendenza, funziona un po' al contrario, nel senso che siamo partiti da un casting dove abbiamo selezionato 4 ragazzi e l'obiettivo è quello di allargare continuamente il contenuto di questa casa, aggiungendo sempre personaggi nuovi che rappresentano qualche cosa tipicamente del marchio, quindi chi lo stile, chi la danza, chi la musica. È nato per lanciare un prodotto in particolare, penso alla linea Home, oppure quello è stato un pretesto, non c'entra niente? Ci spieghi un po' la genesi dal punto di vista del marketing. Non volevamo lanciare nessun progetto nuovo in particolare, semplicemente abbiamo ricercato e realizzato una nuova forma di comunicazione. Quello che noi in realtà volevamo fare attraverso questo progetto è proprio comunicare la filosofia del brand, che è appunto il Good Living, che rimane un po' nascosta, e poi anche avevamo intenzione, e a questo punto realizzeremo proprio un sito per l'acquisto online. E poi abbiamo altri progetti che coinvolgono moltissimo il territorio. Utilizzeremo il web per raccogliere le persone, ma per farle poi anche incontrare veramente. Grazie a Cristina Cotterchio per essere stata con noi. Grazie a tutti. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo a Los Angeles su web, style e dintorni? Questo è il momento delle nostre esperte di Mimi, laboratorio di trend watching internazionale. Alessia Zampano, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Per le vie di LA si aggira Kogi Korean BBQ, un marchio che vende i suoi prodotti attraverso due camioncini in continuo movimento. Succede così che centinaia di persone si mettono in coda ad ogni sosta per assaporare un gustoso mix tra i sapori speziati della cucina coreana e quelli che negli Stati Uniti sono uno dei più classici cibi da asporto, i tacos e i burritos messicani. Al di là di questo, però, la vera innovazione sta nel fatto che gli spostamenti dei due furgoncini vengono costantemente ed esclusivamente aggiornati su Twitter, l'ormai noto servizio di microblogging su cui gli utenti registrati postano brevi aggiornamenti su dove si trovano o cosa fanno in un dato momento. Riferendosi a questo fenomeno, il Los Angeles Times ha parlato di un vero e proprio movimento cyber hippie, ribattezzato Kogi Culture. E il segreto di tanto successo infatti non sta solo nella felice combinazione di due delle cucine etniche più apprezzate e diffuse nella città degli Angeli, quanto proprio nella capacità di generare quel brivido di appartenenza a una comunità quasi clandestina che si crea in modo estemporaneo grazie alle modalità istantanee dei nuovi mezzi di comunicazione. Grazie Alessia. Patrizia, a te come sempre la conclusione sugli sviluppi futuri di questa tendenza. Ma il confine tra online e offline è sempre più poroso ed è interessante proprio per questo, perché produce nuove dinamiche, nuovi modelli di business integrati, multicanale, basati sui social media. Quindi abbiamo l'offline che imita il web, ma anche il web che non si preclude la possibilità di utilizzare le esperienze del mondo reale. Essere avere @radio24.it è il nostro indirizzo di posta elettronica per le vostre idee, i vostri suggerimenti. L'appuntamento è per domenica prossima dopo il GR delle 13, il sabato alle 15 per chi ci volesse riascoltare. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.